siamo la felicità. Albano e Romina, canzone del sud. Albano e Romina, siamo la felicità. Albano e Romina, Albano e Romina, Albano e Romina. Tu non fare là, tu non fare là, tu non fare là, tu non fare là. Una cosa la so, una cosa la so, una cosa la so. Tu non fare là, tu non fare là, tu non fare là, tu non fare là. Una cosa la so, una cosa la so, una cosa la so. Tu non fare là, bitch, non parlare mai di me. Non sarò il tuo nuovo trend. Sciacquati la bocca, acqua di rugiada, acqua di Chanel. Sversando su milieu, rore perle sui collier. Come panna sul caffè, il tuo sa di niente di che. Allaccio sta cintura off-white. Con mio fratello Madman, bye bye. Precis non ve così day and night. Day and night, sì, day and night. Day and night, con mia sorella siamo ubriacassai. Guido Fasano sulla selva. Sto andando piano, puzzo d'erba. Logo rotondo, fai uno spino. Martina Franca, Cisternino. Stiamo chillando in Valle d'Itria. Mi sta eccitando la tua invidia. La tua invidia. Pristis, per te non avevo l'età. Gigliola 5. Gigliola. Nuova ricetta per te. All ingredient. Signora. Non sono pane per te. Pane per i tuoi denti. Ehi. Tu figlia di noi, figli di sé. Alle sorrette. Vabbè. Blocchio che, frate il fatto è che se lo faccio è perché sono il re. Mica tanto per volume che io ciuppa che poi sei Luca Pato. Se ti rode il culo ti porto del zucco allo è. Ho perso la testa, si per te salo me. Sto strappato a casa in salopet. Sogno a corvette. Oggi flow, tanto me. Tu sei quello che sembra tipo quello ma non è. Siamo la felicità. Albano e Romina, canzone del sud. Albano e Romina, siamo la felicità. Albano e Romina, Albano e Romina, Albano e Romina, Albano e Romina, Albano e Romina.